litorale adriatico, comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. Nel litorale adriatico furono adottati sistemi di persecuzione e di sterminio analoghi a quelli praticati nell'est europeo. Di quei sistemi, la risiera di San Sabba, un ex opificio per la pilatura del riso adibito dai nazisti a Polizeihaftlager, diventò lo strumento più efferato. Questi nomi sono estratti dalla lista Bubnich, elenco delle persone soppresse in risiera raccolto dal giornalista sloveno Albin Bubnich. Cibitira Francesco, soppresso il 21 del 12 del 44, matricola 12750. Cobaltio Cobal Carlo, nato a San Daniele del Carso il 23 dell'8 1900, soppresso il 10 del 6 1944. Cocon Giovanni, nato a Fiume il 13 del 2 del 10, soppresso l'1 del 9 del 44, matricola 13805. Polaric Natale, nato a Santa Barbara il 24 del 12 1908, soppresso il 18 del 6 1944. Soglia Luigi, nato a Gabrovica il 7 del 4 1898, soppresso il 4 del 4 45, matricola 16930. Acqua, potrei anche dire di bere, ma non sto a vacillare di bere. Invece mi alzo e te lo porto subito. Un can che vedo che mi guarda che dico, te vuole l'acqua? Appena tornata dormivo con due fiasche di acqua sotto le coperte, sempre in mano. Dure, per la paura che me le porti via. Mi posso dire che la mia famiglia si è morta di sete. E se sarei passati un 2 o 3 giorni andavo anche me. Non dico corone o medaglie, ma in altri paesi hanno la poltrona a teatro. Qui da noi è da poco che non pagano il ticket sui medicinali. Ho passato 1 o 2 anni nei quali tutto mi sembrava senza senso, tutti i problemi stupidi, tutte le preoccupazioni normali della gente assurde. Io sono tornata. Sappiamo, sì, l'hai già raccontato 100.000 volte. I figli. Mia moglie mi crede più di tutti, perché bisogna trovare la persona che comprende. Dopo sono un po' agitato, sogno di essere là. Ah no, sono qua, ti svegli. Passa, ti calmi. Mamma mia, incubi per 15 anni. Sempre stimi fra lei che torna. Invece la mattina, i primi anni era terribile. Per soli 2 mesi che ho fatto figurarsi chi era là per anni. E io credevo che sarà tutto diverso, che tutto andrà bene, che tutti si vorranno bene, che tutti avranno i loro diritti. E invece conosco donne che a 75 anni, perché con la pensione non ce la fanno, vanno ancora a servire per le case, mentre fora tutto se strassa. Ah mia, i miei fiori che ho contato tutto. Anzi, voglio che sappi per sapersi regolare che non succede più. Ma almeno speriamo. Svojo i 10 rekla sam sve, sve. Jer želim da znaju sve. Tako će znati kako moraju živjeti da se sve ovo nikada više ne dogodi. Barem, nadajmo se. Mi mettevo sul treno 3 e bombardavano il treno 2. Mi mettevo nell'1 e bombardavano il 3. No, non esistono eroi. Io non ho nessun merito di essere sopravvissuto. Abba se li odea, shabba non ce l'ho visto. Vechisho to abbi miuchad, abbena yachid ma orlenav. U yadach lo yadazot mimeni. E la mia cherim, otisha ititam. Ullo shal shum davar. Mio papà sa che le sue figlie e sua moglie e mio fratello, che per lui era una passione, l'unico maschio come un dio portato a casa. Sapeva perché sapeva, ma da altri. A me, che ero stata con loro, non ha mai domandato niente. È una cosa talmente lontana dalla mente. Rimangono in mente le cose, non dico essenziali, ma se lei dà un colpo forte la lettera resta marcata, altrimenti rimane così. Non so se mi sono spiegato. Come una macchina da scrivere. La sa. Cosa se sta duro? Chi che non ha prova, non so se sa la verità. Comunque, non se che parla sai, questo sia ben chiaro. Iz naše družine smo vsi hodili u slovensko in italijansko šolo. Moj oče je hotel da bi se naučili oba jezika in tudi jaz mislim da je tako prav. Potem sem odrasla, šla v mesto in seveda so mi vsi pravili ščava, ker nisem govorila dobro italijansko. Scusi, potrebbe Sì, noi abbiamo fatto tutti sia le scuole slovene che quelle italiane. Nella mia famiglia, mio papà voleva che imparassimo tutte e due le lingue e credo che sia anche giusto. Dopo sono cresciuta, sono andata in città, in... Oddio, naturalmente mi dicevano sciava, perché non parlavo bene l'italiano. La mamma ci diceva, ma cosa volete andare a scuola scalzi, c'è la neve? Ma no mamma, vado perché forse oggi si sveglia in pochi, mi manda a bevere il cacao. Avrò avuto sì e no 8, forse 10 anni, contavo i compagni in classe. Sono in 7, meno male, c'ho su 40, oggi finalmente bevo il cacao e mangio il pan, se non arriva gli altri... Era la prima volta che mi portavano su in soffitta dove distribuivano il cacao. Me lo mettono davanti e quando sto per berlo, il bidello, uno sloveno che collaborava con i fascisti. Ti non te bevi, e il pan non sei per te. E via il pan, e il cacao e anche il pan. Sempre così facevano. Guardi che non si dimentica, anche se era una creatura. È la pura verità. Non per niente si è diventati, sa, un poco oggi, un poco domani. Soffri oggi, soffri domani, tutti nei paesi. O si era col fascismo o col nazismo. O con la resistenza. A 22 anni vendevo fiori a San Giacomo. È una bellissima domenica del 43, circa le 11. Passano i fascisti con il gagliardetto. E una donna che porta il latte e mi chiede in sloveno a quanto sono i garofani. Podvajset centesimo, neanche finito di dire. Mi rovesciano tutto, mi calpestano tutto. Arriva un uomo e dice: ma non vi vergognate, ma cosa occorreva fare questo danno? Lo prendono e lo portano via, non so chi era. Siete contenti di quello che avete fatto? Da 30 anni dobbiamo stare zitti. Sono 30 anni che sopportiamo. Vada ai tuoi fratelli, vada ai tuoi fratelli. No, no, io devo restare qua. Qua sono nata e qua resto. Un commissario, un buon uomo che mi conosceva, aveva paura che mi portassero in Villa Triste. Savina, sta zitta, ti prego. Ma perché devo stare zitta? Perché devo stare zitta? Solo per aver detto una parola nella mia lingua. Va via, va via. E vado nel magazzino e la piango, piango. E dopo un po'... Savina, Savina, vieni fuori, vieni fuori. No, non posso venire fuori, mi lasci stare. Ma vieni fuori che la gente ti aspetta. Ma che gente? Ma vogliono comprare i fiori, c'è la fila. Qualcuno con un secchio d'acqua. Qualcuno lava i fiori. Qualcuno appoggia sul banco i soldi. Oh, bello, no? I soldi di tutti i fiori. Ah, io non ho chiesto niente, anzi, si trovava gente buona che vedeva le ingiustizie. Gesù. Abbiamo avuto problemi fino alle leggi razziali del 38. Poi, prima di tutto, non ci lasciavano andare a scuola. E i bar con la scritta esercizio ariano, vietato l'ingresso ai cani e mendicanti agli ebrei, al caffè Bar Portici, al caffè Pitchen, al caffè Venier, caffè Eden. Su ogni bar si vedeva... Mi sono andata a lavorare che avevo 14 anni nella fabbrica dei tabacchi, però passai pochi mesi in Mecciama, non mi ricordo chi, in via Carducci doveva essere qualcosa. E mi ritira il libretto del lavoro, che metti su un timbro con tanto di razza ebraica e non mica la sa più andare a lavorare. I fascisti rompevano le vetrine dei negozi degli ebrei. La gente approfittava per fare razzia. Mio papà aveva una bottega in ghetto di mobili vecchi. Hanno chiuso tutto, non si poteva fare niente. Ci hanno sigillato la radio a casa. Nel tempio non si officiava più, anche là andavano, spaccavano, andavano dentro e facevano, sporcavano, con rispetto parlando, facevano la pipì. Oh, oh, oh, oh. 4 giugno, due punti, zona Villa Nevoso, 7 paesi incendiati, virgola, saccheggiati, virgola, 60 uccisi, punto. 12 luglio, due punti, tutto abitato Potkum, raso al suolo, virgola, 108 persone fucilate, punto. Firmato Temistocle Testa, prefetto Fiume, punto. Azione tedeschi volta a terrorizzare popolazione civile, ed stroncare basi appoggio lotta partigiana, punto. Campanaro, virgola, Kiloce, virgola, Ratacevo, virgola, Brdo, virgola, Merece, virgola, Pozdegna, virgola, Pozteisce, virgola, Goreni, virgola, Vitnia, virgola, Dolegni, Vitnia, in fiamme, punto. Lipa, trucidati 257 civili, virgola, vecchi, virgola, donne, virgola, bambini, punto. Franz Gulin, detto Boro, punto. Oscar Kovacic, punto. Darinka Piszczans, punto. Uccisi, due punti, 2000 combattenti, punto e virgola, 2500 inermi, punto e virgola, 1244 arresti, punto e virgola, 422 avviati, campi sterminio, punto. Istria, pietà alle morta, punto esclamativo. Il forno della Rissiera comincia a funzionare prima del giugno del 44 con una capacità giornaliera di incenerimento di 50-70 corpi fra le 3.000 e le 5.000 persone uccise, moltissimi ostaggi civili di nazionalità slovena e croata, la maggior parte delle vittime, gravissime anche le perdite da parte italiana. Quanto agli ebrei, la Risiera di San Sabba diventa per loro il sinistro imbuto attraverso il quale passa il 21,6% del totale dei deportati dal territorio nazionale. Ai 708 residenti a Trieste vanno aggiunti quelli di Fiume, Gorizia e altri fra Venezia, Udine, Pola, Susa, Cabazia. Secondo calcoli recenti, 1235 ebrei partiti, 39 sopravvissuti, gran parte, 1084 Auschwitz. Nel 44, 11 aprile, i tedeschi hanno ammazzato mio papà. Dicevano che i suoi figli erano partigiani. A 300 metri da casa lo hanno ucciso. Mi invece sono sta restà in un rastrellamento vicino de Pola. A coltellate è buttato nel fuoco e mio padre è riuscito a scappare fuori dal fuoco e loro lo hanno ripreso e buttato un'altra volta. Un mio amico si è stato anche impiccato quel giorno. Egli aveva 16 anni, mi 17. E lo hanno finito. Quasi 18. Al cantiere San Marco, un certo Budicin, una mattina il mega dito: guarda che te sono assegnato per andare in commissione da Rainer in Palazzo di Giustizia. E se mondai, gli era già i tedeschi, gli avevamo spiegato le nostre richieste, e a un dato momento se veniva fuori un ufficiale delle SS, alto, personalità alta, in perfetto triestin. Voi se veniu di qua per colpirne alle spalle, noi ve impiccheremo guardandove in tel muso. Dopo tanti anni, sul meridiano, ho letto che quelli era il generale Globocnik, quel della Risiera. In perfetto triestin. Nato nel rione di San Giacomo, a Trieste fino al 1923, vice Gauleiter di Vienna dopo l'Anschluss, Odilo Lotario Globocnik raggiunge l'apice della sua carriera dopo la conferenza di Wannsee, 20 gennaio 1942, presiedendo la tragica soluzione finale ebraica. E il suo sostenitore Himmler, in una lettera indirizzata al caro Globus nel novembre del 43, si complimenta con lui per i circa 2 milioni di ebrei e oppositori politici polacchi sterminati. Fiero del suo lavoro, ma preoccupato che potesse crescere in Germania una nuova generazione incapace di comprendere il nostro lavoro, il caro Globus proponeva di sotterrare coi cadaveri targhe di bronzo, attestanti che siamo stati noi ad avere il coraggio di portare a compimento quest'opera così grande e così necessaria. Ebbene, con il suo insediamento a Trieste nel settembre 1943, quale capo della SS del litorale adriatico, a quelle terre che gli avevano dato i natali, offrì in cambio il privilegio di poter sperimentare qui e anche fuori di qui sistemi di persecuzione, di rappresaglie e di eliminazione del tutto simili a quelli attuati nei peggiori campi di sterminio dell'est europeo. Alla fine della guerra, catturato insieme al supremo commissario Reiner, ingerisce una capsula di veleno. Nell'operazione Alto Adriatico, Globoznik fu affiancato da un suo vecchio compare, Der Wild Christian, il selvaggio Christian. Christian Wirth, dal 39 al 41 direttore dell'operazione Eutanasia. Oltre 70.000 tedeschi, fra handicappati, malati mentali, inabili, le cosiddette vite zavorra, uccisi. Immediatamente dopo, sempre assieme al caro Globus, allestisce i campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka. Non amava le scorte, che uomo. Muore in Istria per mano partigiana nel 44 in un'imboscata nei pressi di Erpelle, sulla strada per Fiume, al volante della sua vettura Konrad Geng. Al torturatore Gaetano Collotti, Ministero della Difesa, Esercito. Ricompense al valor militare. Decreto presidenziale 25 agosto 1953. Registrato alla Corte dei Conti il 28 settembre 1953. Registro numero 37, Esercito. Foglio numero 197. Sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare. Collotti Gaetano, di Alessandro e di Stefano Maria, di Castelbuono, Palermo, classe 1917, vice commissario aggiunto di PS, ispettorato speciale PS per la Venezia Giulia, in qualità di vice commissario di PS, incaricato di procedere ad alcuni arresti di partigiani di una località del Goriziano, venuto a conoscenza del probabile passaggio di elementi partigiani nemici in località prossima, accompagnato da pochi agenti, predisponeva un appostamento. Successivamente, rimasto solo, ne affrontava coraggiosamente alcuni armati, riuscendo ad ucciderne uno, a catturarne altro ed a ferirne un terzo, che si dava la fuga unitamente ad altro piccolo gruppo posto in agguato nelle vicinanze. Tolmino, Gorizia, 10 aprile 1953. Mi hanno consegnato a Ping, quello che nel dopoguerra hanno condannato a morte e dopo 2 anni girava libero per i fatti suoi grazie ai signori americani. Poi ci hanno portati al coroneo. In un atrio c'era Collotti, profumato come una puttana, leccato, schifoso proprio, con quelle sue manine che lo facevano sembrare una persona gentile. Nel 34 sono stato arrestato da Lovra e condannato dal tribunale speciale a 4 anni a Bari in una casa penale. Gli era sta Gramsci là, gli era Pertini. Dopo go continuà il lavoro clandestino. Frausin ha fatto fuoco e fiamme perché correvimo assolutamente a Trieste, mi gigante, eliminato dopo in Risiera. Ecco qua, in data 9 settembre del 1944 sono sta arrestata la banda dei Colotti e me ga portà nella loro villa in via Bello Sguardo, villa triste. E era spaventoso, torture, soprattutto quella tortura elettrica nelle parti più delicate, i testicoli in testa, le orecce. Mi hanno portato in villa Bello Sguardo, all'ispettorato speciale di pubblica sicurezza della Venezia Giulia, diretto dall'ispettore generale Giuseppe Gueli. C'era il commissario Collotti, mazzuccato. Là è stato un momento difficile. Collotti, seduto, aveva con sé 3 di loro e loro picchiavano. Lui, dietro al banco, con la penna, mi bucava dentro alla bocca. Mamma mia, questa è stata la prima volta. La seconda, in una stanza c'era una cassa da morto, nera, piccola, e mi dicono: siediti sopra, se non parli sarà per te. Abito di fronte all'ispettorato in via dello Sguardo. Si sentivano grida atroci di gente torturata giorno e notte. L'opera della banda Collotti non si svolgeva ai margini dell'apparato, ma in sintonia con le direttive, anzi nel quadro delle autorità responsabili. Bruciacchiavano con sigarette i seni delle donne e ne premevano nei cassetti i capezzoli. Lesioni ai genitali prodotte da morsi di un cane, ustioni all'ombelico. Denudata completamente nell'ufficio di Collotti, percossa brutalmente con manganelli di ferro e calci. Sostenuto più volte. Sigarette e sigari sotto le piante dei piedi. Sangue in gran copia dei genitali. Collotti era montato sul mio ventre con tutto il suo peso. Prefetto e podestà di nomina nazista. Firmato Supremo Commissario Gauleiter Rainer, 26 ottobre 1943. Bruno Coceani, segretario politico fascia Trieste 1923-1924. Podestà fascista Monfalcone, deputato fascista, consigliere nazionale Camera Fasce e Corporazioni, presidente Federazione Nazionale Industrie e Pesca, consigliere Assicurazioni Generali, Istriana Cementi, Arrigoni, Adria, vicepresidente Unione Industriali Provincia Trieste, prefetto di nomina nazista, punto e virgola. Cesare Pagnini, aperta parentesi, membro Consiglio Provinciale Economia, consigliere Società per il Porto Industriale e consigliere Associazione Italo-Germanica, chiusa parentesi, podestà di nomina nazista, punto e virgola. Guido Cosolic, aperta parentesi, direttore Lloyd Triestino, chiusa parentesi, vice podestà di nomina nazista. Tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati italiani verrà chiesto se vogliono combattere con l'esercito tedesco contro i partigiani. Coloro che non vogliono obbligarsi saranno internati e condotti in Germania. Firmato colonnello Barbeck. E l'ora torbida che volge, assurdo che questa sventura ci trovi anemici, sfiniti, sordi, noi di vitalità inestinguibile, e non trasfonda invece nelle beati nostre arterie, come attraverso un vaso comunicante, quell'energia che ci iniettò a suo tempo Caporetto. Figli, figli, che avete fatto delle armi e della divisa del soldato onore del sangue nostro e del paese. Sì, madri, parlate loro come sapete, come solo le madri sanno, ravviando col pettine delle vostre dita i loro capelli sudati. Foste già buone a persuaderli al sonno quando essi erano piccoli e ripersuadeteli oggi alla patria. Il prefetto Cucuzza invita tutti indistintamente alla massima calma e disciplina. Primo, è vietata qualsiasi manifestazione possa turbare l'ordine pubblico o comunque che sia di offesa alle forze armate tedesche. Cognome, nome, data e luogo di nascita. Reis Auguste, vedova Corsi, 8 agosto 1900, Wiener Neustadt, Austria. Sono stata interprete del comando tedesco di Trieste per ordine del Gauleiter della città ed ho collaborato con i comandanti Wirt, Hering e Allers. Gottlieb Hering si è spesso lamentato con me delle cose che accadevano a Trieste. In nessun luogo come a Trieste, diceva, né in Polonia, né in Belgio, né in Francia si erano verificati tanti episodi di delazioni scritte e orali fatte agli occupatori da abitanti della stessa città. Mai tante vendette personali. Il giorno stesso che hanno portato via mio fratello, i tedeschi ci hanno sigillato la casa. Per modo di dire, neanche le mutande per cambiarci. Ci ha ospitato il padrone dove lavoravamo, un sarto famoso, ma facendo i servi. E dopo un anno la moglie ha fatto la spia. Mio papà ha perso mia sorella di 24, una di 22, una di 21, 18 mio fratello. Abbiamo pregato tanto che lasciassero mia madre. Aveva 54 anni. Mi hanno risposto che erano 10.000 per persona, quella volta. I fascisti cercavano e vendevano gli ebrei per 10.000 lire. Mi hanno portata via per ultima. E i tedeschi hanno detto alla moglie: Dankeschön, Frau, auf Wiedersehen. Sono tutti morti. Finita la guerra, la vedevo con i vestiti nostri, di mia sorella camminava per strada. Mi ricordo come adesso che studiavo chimica, magistrali, ultimo anno. Sono stata prelevata a casa che avevo 17 anni. Sono arrivata all'SS, uno era talmente alto che non passava neanche dalla porta. Una faccia brutta, scura, vestito tutto di nero. Fuori dal giardino pubblico, alla prima porta, era fermo un camion. Risiera. Da lì aspettavo di giorno in giorno di andare a casa. Sicché quella mattina, quando leggono il mio nome vicino a quello di mio papà, io non temevo niente perché battezzata dalla nascita, mamma cattolica, papà misto, tre nonni ariani, neanche per la legge di Norimberga mi avrebbero dovuto portare via. È stata una cosa terribile. Mia mamma lì, in un angolo, in mano un asciugamano, un pettine, mi dà queste due cose come se mi stesse dando l'anima, mi abbraccia, mamma tornerò. Ed io per queste parole, altrimenti non avrei resistito, perché quello che ho passato ad Auschwitz. Lei, mia mamma invece, non ebrea, dopo due mesi l'hanno rimandata a casa e... deploriamo di doverle comunicare che i suoi congiunti Ascoli Giacomo, nato il 18 del 2 1890, Ascoli Marta, che sono io, nata l'8 dell'11 1926, il giorno 20 luglio 1944 vennero trasportati da un lager di transito nell'interno della Germania e sono caduti vittime di un attacco terroristico presso Monaco nello stesso giorno. A causa della difficile identificazione degli occupanti del convoglio, che furono bruciati per la maggior parte, non fu possibile darne prima notizia. 16 agosto 1944. Loro potevano ben dire che io ero morta, perché tanto da lì, dai lager. Franz Stangl, vice direttore amministrativo ad Artheim, operazione eutanasia, comandante di Sobibor e di Treblinka. La mia professione? Mi piaceva, mi appagava. Eh sì, ponevo in questo la mia ambizione, non posso negarlo. Naturalmente i pensieri venivano, ma io li scacciavo un bel bicchierone di acquavite a letto ogni sera e bevevo. Andai a Trieste in convoglio con Globocnik, Birt e 120 uomini provenienti da Treblinka, dei quali 5 ucraini. E fu una vita completamente diversa. Corte d'assise di Trieste, 29 aprile 1976, numero 375, registro generale. Franz Stangl, deceduto in Düsseldorf, dove stava scontando la pena dell'ergastolo inflittagli dalla corte d'assise di quella città, ebbe a Trieste il comando della sezione R3, operante a Udine, ed estese la propria attività fino a Venezia, dove dispose il prelevamento dall'ospedale degli ebrei ammalati che furono trasportati a San Sabba e lì in parte uccisi. Per l'attitudine a svolgere imprese come questa, era chiamato il capitano volante. Dalla sala custodia dell'ospedale io potevo comunicare con mio marito, ricoverato in divisione al piano terra. Alle 5 del mattino noi lui novello Romeo dal cortiletto, io novella Giulietta dal balconcino con l'alfabeto muto. D-I, come a scuola, con le dita. Non con due, con tre gambette. M, non con due, Yeladim. Usavamo Yeladim, non bambini, perché adoperare la parola bambini era troppo rischioso. Fino ad oggi, fatale 20 gennaio 1944, questo piccolo giardino di via Cologna 29, Pia Casa Gentiluomo, è stata un'oasi di pace. Sotto gli ombrelli degli ipocastani, vecchi ebrei consumano in serenità l'ultima fiammella della loro vita. Una corriera si è fermata là davanti. Sul bandone di ferro sferrano dei calci. Comandi in tedesco, duri e aspri, accolgono una doppia fila indiana di uomini pesanti per ghermire. Oh, qualche testa si sporge timidamente a guardare. Tutto si svolge così rapidamente. Una striscia di luce si infiltra tra il verde, quasi a segnare la strada. Vecchi di 70, 80, 90 anni, uccellini tutti pelle e ossa. Un nero corteo si forma tra la casa e la corriera. Sono sospinti da mani rudi. Qualcuno cade per terra. Non riesce più a sollevarsi. Guarda! Si illumina un abbaino. Un soldato tedesco esce a vedere se c'è qualcuno nascosto sui tetti. Come se noi poveri vecchi fossimo decisivi per la sorte della guerra tedesca. Escono le ultime portantine. Invalidi, paralizzati, incoscienti, voci rose, voci di pianto, invocazioni, un lamento senza fine, un fagotto di stracci gettato all'interno della corriera. Aiuto. Il volto di una vecchia come inciso nel cristallo di un finestrino. La sua bocca si apre e si chiude senza posa. Un soldato abbassa la tendina. Un'ombra cala su destini privi di forze, privi di tutto. 28 marzo 1944, ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Data di nascita? 10 aprile 1868. Religione? Israelita. Diagnosi demenza paranoide. Modalità di missione prelevato mano militari da formazione SS. Destinazione ignota. Per destinazione ignota. 8.222 deportati dal litorale adriatico, 6.525 uomini, 1.687 donne, 10 indefiniti. Tribunale Francoforte, udienza 15 settembre 1965, teste di Bois Karl Werner. Nella risiera di San Sabba avevamo i seguenti compiti: lotta ai partigiani e rilevamento del patrimonio degli ebrei. È anche successo che gli ebrei sono stati trasferiti in altri campi. Un giorno, un certo Toio viene a bussarmi e mi fa: presto, presto, vai alla stazione, che c'è un convoglio che parte. Alla stazione io ho visto mio papà e appena lui ha visto me mi ha fatto subito cenno di andar via. Lui credeva che me ne fossi andata, ma invece io l'ho vista partire tutta la mia famiglia. Mia madre, mio padre, mio fratello, mia sorella. Dopo che hanno prelevato quei 51 impiccati in via Ghega, eravamo persino contenti di andare in Germania. Qualsiasi soluzione era buona, pur di allontanarsi, perché qui era veramente tremendo. Li hanno portati via dal Coroneo al Martino. Siamo partiti. Viva la e Pavon. Su 123 trasporti nazionali, 74, ossia il 60%, partono dal litorale adriatico. Quando siamo arrivati in una stazione in Cecoslovacchia, un ferroviere ci domanda: siete ebrei? E una ragazza ebrea, assieme alla mamma, gli risponde: no, no, no, non siamo ebrei, noi siamo ariane. Ah, meno male, perché gli ebrei appena arrivano li bruciano tutti. E la ragazza, brum, lunga distesa per terra. Nel vagone, una cosa spaventosa, 10, 15, 20 morti, tanta gente. Quando siamo arrivati potevamo distenderci per terra, mentre prima non riuscivamo a stare neanche in piedi. Grida e urla, mamma mia, non parliamo per i bisogni. Ci hanno aperto lo sportellone, mi pare, una volta che eravamo in Austria, dopo basta, dopo non più, con un pezzo di pane, così, e senza bere, avevamo sete. Dal finestrino del vagone chiedevamo acqua, acqua, e dei bambini alle nostre richieste ci sputavano dentro. Quando siamo arrivati perdevamo i vestiti. Non ricordo se i morti li buttavamo noi fuori dal... No, no! Mi pare che li buttavamo noi. Arrivati ad Auschwitz, per sta grande porta de notte, e era quasi Nadal, e era sto grande albero fora, e disemmo: lavoreremo, e ne darà soldi, pensavimo, con tutte ste luci, ma che bello. Arrivate a Ravensbrück, dopo con la doccia ci viene fatta anche una visita ginecologica. Quella volta ero una ragazzina, non avevo mai visto un corpo di donna nudo e là non c'erano né separe né niente e ci fanno questa iniezione. Nessuna abbia avuto la mestruazione. Arrivati a Dachau, c'era questo grande cancello con la scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Quando ho visto le zebre, la divisa, ho detto: ciao muli, pardè, e ne dà anche il pigiama. Arrivati a Mauthausen, lo Stubel l'Eltestester. Si dice in tedesco? Qua si esce solo per il cammino, non ci sono altre uscite per voi. Voi altri siete morti, se volete vivere un po'. Dolmetsch! Ho detto, Dolmetsch, l'interprete! Qualcuno deve fare l'interprete! La gente non capisce! Questo è l'interprete vostro! Questo lo capiscono tutti! Arrivati a Dachau, ululava di questi capi, sottocapi deportati, prigionieri come noi. I capò bastonano, inveiscono, spingono, gridano, abbaiano. Se i prigionieri si comportano in questo modo è grave. E più questo capo inveisce, più l'SS, che sovraintende all'accoglimento, si compiace. Non ha neanche bisogno di sporcarsi le mani. Questa sì che si chiama organizzazione. Arrivati a Buchenwald, l'8 settembre del 1944, il bel sole, tutti di stiraito. Siamo cascai ben qua, noi lavora tanto, tutti che ciappa sol, se come essere al bagno. Mi son sai, osservator, son sempre alerta, guardo bene, e noi che pensaimo che ciappava sol. Che scigano le Auschwitz-Birkenau, aia da varme taref, aghe non scheldante. Ma le schluliotta mi di maragla in babboz, a colbizza. Mrimlano le tbashet, me galchimotanu le gamre, le matave, le mala. Con la searocili, a zamoceli. De harka hasula notam sarà arrivati ad Auschwitz, Birkenau. Era una cosa allucinante. L'inferno dantesco. Arrivati a Auschwitz di notte, svelti, svelti, ci aprono le porte e abbiamo visto questo campo, questi camini, queste fiamme, mamma mia, tutti ci siamo messi a piangere. Gli acquitrini, sempre con i piedi nel fango, tutta palude. Ora le smosse svuci, posle sono sbriali, o dosdo, dosgo, potono obriali do. Svelti, svelti, mio papà, due sorelle, un fratello, mio cognato, mia cognata, cinque nipoti, ci mettono in fila, ci fanno spogliare, ci rasano di sotto di sopra, rasati a zero. Ros, ros, due italiani ci dicono: se avete figli piccoli lasciateli, moleli, moleli, lasciateli. Sa, io, tutti, 14 persone della mia famiglia, tutti i miei capelli, le mie trecce. Oia. Divna, cosa? Moje, chicche! Che paura! Non ho più visto nessuno. Al mattino, quelli di Salonicco, dice la Blokova, vedete quei cammini lassù? Ieri sera tutti i vostri, mio Dio, non posso raccontare. Non ci riesco. E poi ci hanno fatto questo... Napravi lì, o vai broi. I me chiamava per nome. 44.700. Ed io 82.964. Mi avevo Vierund, e chi se lo ricorda sto nome? Mia mamma aveva lo scignone e gliel'hanno tutto tagliato, poveretta. In mezza giornata trasformate. Ci guardavamo. Chi piangeva, chi rideva. E dopo tutte zitte. Nessuna fiatava. Adesso, quello che io oggi vorrei sapere è il pensiero, è il ragionamento di mia mamma quella volta, è il ragionamento di mia sorella, vabbè, io mi sentivo comunque protetta, ma mia mamma, perché voglia o non voglia, aveva già 54 anni, con alle spalle una vita già formata, vedersi improvvisamente là. Io avrei voluto essere nella sua testa, sapere i suoi pensieri. Aaron Pakitz, ebreo coi rizzi del ghetto de Cracovia. un miseriz import-export morto a Varsavia. Suo figlio Simon, chirurgo a Vienna, fatto baron per ordine del Kaiser, morto a Gorizia. Paola, sua figlia, cantante d'operetta, fatta a Savon per ordine del Führer, morta a Mauthausen. Quarantina o un'ottantina di zingani. Non ho messo bene il numero esatto. Solo uomini, ben messi, perché era stati appena ciapai. I rigà portai dentro, questo a Leonberg. E i gatta qua a pianzer il giorno che li portai, e i se morti tutti piangendo. I ga pianto tutta la notte e tutto il giorno drio. Una roba impressionante. Sapevo che nella risiera in Trieste esisteva un impianto di cremazione. Questo impianto è stato progettato da Erwin Lambert, come la maggior parte degli altri impianti dello stesso genere, nei campi di sterminio e negli istituti per l'eutanasia. Cortile della risiera erano state costruite delle celle angustissime, i cosiddetti bunker, simili più a bare che a ricettacoli per viventi. Sul tavolaccio portato da non so che mani pietose trovai un pacchetto di sigarette. Non appena il soldato si fu allontanato, cominciarono a parlare le voci della notte. Sono sepolto vivo da 40 giorni. Non posso respirare, ho sete. Dammi una sigaretta. In 3 giorni un ragazzo riccioluto, 18 anni, imbiancato. Come vanno le cose sul fronte? Ne ammazzano ogni notte qualcuno. Li portano nel cortile e poi li ammazzano con un colpo alla nuca. Dopo ogni sparo i cani urlano. Li sentirai anche questa notte. Forse per me, forse per qualcun altro. In una settimana, da quando sono qua dentro, ne ho sentito uccidere 30, tutti partigiani. SS di statura gigantesca stava conducendo per mano nel secondo cortile davanti alle prigioni un bambinetto bruno e ricciuto, certamente ebreo, che zampettava appena. Il bambino incespicato è caduto, il milite lanciando una bestemmia, lo ha colpito al capo con il tacco dello scarpone. La testolina si è letteralmente... Ecco, Werther, i gurli tedeschi, alza la radio, insomma, musichette allegre, impizza il motore del camion, mi fa abbaiare i cani. Mi hanno denudata, appesa per le trecce ad una trave, mi hanno bastonata fino a farmi svenire. Poi mi hanno cacciato nella cella numero 7. Adesso tocca a noi. Dalla finestra ho notato delle SS trascinare per le spalle della gente che giaceva immobile per terra. Un'altra mi arriva alle spalle e mi caccia in malo modo dalla finestra minacciandomi. Dopo un anno così, anche un chiodo che cade sul pavimento scatena un brivido. Gli ucraini e i mongoli incaricati delle esecuzioni li ubriacano nelle prime ore del pomeriggio, così la notte sono in forma. Anche qualche tedesco partecipa a queste orge. Ho sentito dei tonfi sordi, mamma, come un corpo morto che cade su qualcosa di vuoto. E poi, mamma. Mamma in tutte le lingue. Maiko Moia. Guardi il camino. Bruciano la gente. Ho visto 2 o 3 volte uomini e donne sparire nel locale del forno. Capita sempre verso le 22:30, 23:00 di sera. Quando fa scirocco non c'è vento. Il fumo entra anche nelle celle. Per il tanfo quasi non si respira. Giù, bombe. Mi sconvolge lo stomaco. Giù, bombe, cadete. Le celle ci sono molti rami. Almeno potessimo morire subito. Di che colore sono diventati i miei capelli? Wachsberger Giovanni, sarto superstite della risiera. Sereni, Ugo, Paolo ed Elena erano figli di matrimonio misto. La signora non apparteneva per nascita a famiglia ebraica, perciò le dissero che era libera di andarsene. I figli la salutarono, la signora uscì, ma fatti pochi passi ritornò indietro dicendo che non se la sentiva di lasciarla. Rimasero al secondo piano nello stanzone che era occupato dai non ebrei. Nel gennaio 1945 i ragazzi furono mandati in Germania, mentre la madre rimase lì. Dopo qualche tempo, lei mi disse che le avevano detto di prepararsi perché tra qualche ora sarebbe uscita. Ci salutammo e ancora una volta essa varcò il fatale cancello, ma ritornò sui suoi passi. Alla mia osservazione stupita, rispose così. L'ufficiale tedesco mi ha reso la borsetta con i documenti. Ah, ma io ho detto che al momento dell'arresto avevo nella borsa 30.000 lire che non ci sono più. L'ufficiale allora mi ha risposto di tornare nello stanzone. Lui cercava il suo incartamento dove senz'altro reperirà queste 30.000 lire. Mi libera domani. Il mattino dopo, borsa e vestiti si trovavano nel magazzino. Mi libera domani. Lettera scritta dallo studente Pino Robusti alla fidanzata il giorno prima di essere ucciso e bruciato in risiera. Trieste, 5 aprile 1945. Laura mia, mi decido di scrivere queste pagine in previsione di un epilogo fatale ed impreveduto. Da 2 giorni partono decine uomini e donne per ignote destinazioni. Può anche essere la mia ora. In tale eventualità io trovo il dovere di lasciarti come mio unico ricordo queste righe. Se quanto temo dovrà accadere, io sarò una delle centinaia di migliaia di vittime che con una sommaria giustizia in un campo o nell'altro sono state mietute. Per voi, lo so, sarà una cosa tremenda. Per la massa sarà il nulla, un'unità in più ad una cifra seguita da molti zeri. Ormai l'umanità si è abituata a vivere nel sangue. Addio Laura dorata, io vado verso l'ignoto, verso la gloria, l'oblio. Sii forte, onesta, generosa, inflessibile. Laura santa, il mio ultimo bacio a te, che comprende tutti gli affetti miei, la mia famiglia, la mia casa, la mia patria, i miei figli. Addio. Pino. Teste, Oberhauser Josef, Tribunale Francoforte. Io ero comandante del campo della risiera e mi occupavo del rastrellamento e della detenzione di partigiani e di ebrei, secondo gli ordini che avevo ricevuto. Poi disponevo il loro trasferimento in Germania. Se facevano un'altra fine, non lo so. Io di notte dormivo. Tribunale Francoforte sul Meno, udienza 24 novembre 1970. Teste Obersturmbannführer August Eduard Ernst Dietrich Allers. Non ho mai avuto sentore di alcuna uccisione avvenuta nel comprensorio della risiera. Se mi si afferma che alla risiera venivano rinchiusi ebrei, io rispondo che nel periodo della mia attività non ne sapevo nulla. In quel comprensorio erano sistemati i cavalli. Siccome io occasionalmente cavalcavo, era a tale scopo che frequentavo la risiera. Che avevimo una fame nera, ma nera, che non potevamo neanche camminare. Strada facendo, tornando del lavoro, vedo l'erba. Quella che somiglia al crisantemo, però se selvatico, non fa i fiori. E quando che la SS non varda, gori vado a ciappare un par de manade. Cusinemo un bidon de 5 litri, più o meno. Ma era così cattiva, ma così cattiva, che sono tornato a casa, ho provato a dar questa erba una mucca, la ganasà, ma non la voleva. E vuol dire che era proprio velen, proprio cattiva. A Kaufering c'era un campo con delle baracche sottoterra e il tetto era ad un metro di altezza, coperto d'erba, verde. Beh, il giorno dopo il nostro arrivo non ce n'era più. Abbiamo mangiato tutto, tutto. Quanto tempo duri uomo? E in quanto tempo non sei più uomo perché sei diventato il famoso musulmano? Hai sentito parlare dei musulmani? Durante l'Appellplatz, l'appello, facevano le selezioni con la gente più invalida, all'ultimo stadio, che stava per morire. Cadaveri viventi, scheletri, larve umane. Tante volte osservavo come questi cortei affrontavano il viaggio per il crematorio. Da ragazzo avevo visto dei buoi, dei manzi che portavano al macello. Persino i manzi sentivano, si rendevano conto che andavano al macello. Bene, i musulmani non avevano più neanche questo. Nessuna reazione. Si reggevano gli uni con gli altri. Il loro destino era la rassegnazione totale. Ma quella volta non mi toccava il cuore e la coscienza come mi tocca adesso. Ero vicino a loro. Forse ero poco diverso. Io ho assistito a un fatto di cannibalismo. Non so se un russo, mi sembra che un russo mi avesse detto: là c'è una cosa strana, non andate là. Musulmani, polacchi, 7, 8, gente disfatta, ci sono momenti in cui ragioni e non ragioni, hai la mente che ti porta a fare qualcosa di inconsulto. Avevamo fatto un fuoco in un buco con dei legni, avevano? L'avevano, ed io sono andato vicino e ho anche domandato: tu niente, tu non sei polacco, i morti sono nostri e ne abbiamo anche poca. Una volta, anni dopo, in Brasile, ero in viaggio. Il mio treno si fermò accanto ad un mattatoio. Il bestiame era vicinissimo al mio finestrino e mi guardava attraverso la barriera. In quel punto pensai: guarda, mi ricorda la Polonia. Era proprio così che appariva la gente, piena di fiducia, prima che finisse nelle scatole. Nelle scatole, ho detto, che cosa intendi dire? Randstangl proseguì senza rispondermi, come se non mi avesse... Dopo da allora non riuscii più a mangiare carne in scatola. Quei grossi occhi che mi guardavano, senza sapere che di lì a poco sarebbero stati tutti morti. Sentiva che non erano esseri umani. Bestiame, semplicemente bestiame. Ravensbrück, lager femminile. Chissà se voi riuscite a trovare un calendario del 44, anzi del 45, perché a me sembra... Noi abbiamo i giornali del 45. Sa, là a Ravensbrück non avevamo calendari. Sarà stato il 13, il 15 febbraio che è nata questa creatura. Mi sembra fosse una domenica, perché c'era solo un appello. È rimasta viva fino al 28. Il primo marzo mi hanno portata nel blocco 23. Cosa non avrei dato per avere un calendario? Adesso troviamo il giornale. Quanti giorni ha vissuto la creatura? 14 giorni, credo. I dolori sono cominciati la domenica. C'era un'infermiera, una certa Pierina di Gorizia, mi ha regalato per avvolgere questa creatura un pezzo di flanella. Mi hanno portata in Riviera, in infermeria. Ormai ero sfinita per forza. 32, 34, 35 chili. E solo all'ultimo, con una puntura lombare, mi hanno fatto partorire. Però me la potevano dare anche il primo giorno. No! Loro sperimentavano. Loro volevano vedere fino a che punto una donna poteva sopportare. Ecco, 11 febbraio, domenica. Allora tre giorni dopo? Era il 14 quando è nato. Se lo hai ricordato perfettamente, vuole che le segni queste date? Potrei avere una fotocopia. Mi l'accodo bi la fotocopio. Questa creatura è nata viva. Oh, non mi pareva vero dopo tanti giorni e tanto martirio. Chissà che sano sarebbe stato, una creatura bella. Che ha vissuto tanto. Lepo bitiece chiedogo. Kleine Partisan, lo hanno buttato in aria e bas. Name, che nome? Ben se Danilo, mio fratello, non tornerà più a casa. Danilo. E cosa gli dava da mangiare? Niente. Cosa avevo? Niente, neanche acqua. Ma le davano della zuppa? A me sì, ma non avevo niente, neanche acqua. Tette, niente. E questa creatura, i primi due o tre giorni, si lamentava, anche piangeva, ma non aveva tanto forte la voce. Dopo 8-10 giorni, gli veniva fuori solo un filo di voce. Gli ultimi 3 o 4 giorni, sempre meno. Gli ultimi 2, ogni 3 o 4 ore, solo apriva un poco la bocca, faceva solo il segno. E stavo vicino per sentire se respirava ancora, e tanto che si sentiva, poi sempre meno, ogni 4-5 ore, 6. L'ultimo giorno e mezzo non sentivo più neanche quel lamento, né apriva la bocca più. E ha cominciato proprio a essere freddo e duro. Proprio si sentiva che era morto. Però non volevo dire a Pierina che era morto il giorno prima, anche se sapevo che era morto, perché speravo di restare ancora là e di non andare al blocco 23, che non aveva più i figli, andava direttamente al blocco 23. Là era la fine, era sempre pieno, più di 1500 persone come scheletri. Si andava prima di morire, venivano ogni giorno questi camion e le destinate le spogliavano e le gettavano sopra, quando non ce ne stavano più le altre dovevano rientrare in baracca, il camion andava via. Pierina Fuglete è morto, ma non adesso, forse ieri o anche l'altro ieri. No, oggi. Posso restare qua ancora questa notte? E vabbè, resta qua ancora stanotte. Avevano anche loro la matricola sulla manina, una specie di nastrino con il numero. L'indomani Pierina è tornata e mi ha detto: Sava! Gliel'ho dato com'era. Già prima di partorire avevo visto queste creature così. E sono andata a vederlo ancora una volta. Era come una persona di 100 anni. Nessuno può capire cos'era. Solo quelli che hanno provato. Nessuno mai capirà. Neanche se mi ricoprissero d'oro. Tu dicevi me da soli slato. Sarei ripagata. Ne vivi la poplaccia. Per quello che mi hanno fatto. Mistorili. Il cannoneggiamento. Quando abbiamo sentito sparare il cannone è stata la festa più grande. In quelle condizioni o si moriva o si tornava a casa. Russi di qua, americani di là, il cannoneggiamento! Topnishki Napad, la speranza era questa. Il 7 aprile del 1945 c'è stato un bombardamento e ci siamo messi in marcia. Sempre camminare, una via crucis, gente stanca, deperita. Chi non riusciva a camminare veniva eliminato. Antonio, non posso. Io non posso andare avanti. Non posso andare avanti. Io ho cercato, era anche un mio amico, ma lasciami, mollami! Lasciami andare! Da 1200 siamo rimasti in 250. E un tedesco, politico, internato come noi, ha detto queste precise parole. Heute Krieg fertig. Oggi la guerra è finita. La mattina... Sanescei e Vojna conciato. Al colpo dei gong, invece della solita SS, o vado fora. Non trovo davanti un gendarmo con una divisa marron che mi dici... Guten Morgen. 5 maggio 1945, pomeriggio. Entra il primo carro armato americano. Lo baciamo. Compare uno striscione grande, un metro e lungo tutto il portone. Los españoles saludan a las tropas libertadores. Gli spagnoli! Ma quando lo hanno fatto? Come? Con tante cose che ho passato nella mia vita, il matrimonio, i figli, il ricordo più intenso, quello che non dimenticherò mai. Continuerò a dire che il giorno più bello della mia vita è stata la liberazione! Notte fra 27 e 28 aprile 1945, Gauleiter Rainer Friedrich lascia Trieste per Austria via Udine Carnia. A colonna aggregasi parte Einsatzkommando Reinhardt con Allers Dietrich, Oberhauser Josef, Geng Konrad et altri. Ad un dipresso li segue generale Globocnik Odilo Lotario. Notte fra 29 e 30 aprile SS Einsatzkommando Reinhardt fanno saltare autorimessa con forno crematorio Risiera San Sabba. Belgrado Lubiana, Lubiana Logatez, e Dio mio! Come arriviamo sull'altopiano, nel vagone bestiame, eravamo tutte su, nessuna era seduta, anche se eravamo stanche, tutte in piedi a guardare. Postumia, Sesana, Opicina, Prosecco, non si può raccontare. Cos'on tornata? Era quel signor, quel che prima di partire mi scondeva a casa sua dell'Ori. La sai chi che sei, no? La sai in via del ponte, l'oreficeria, la sua dell'U, Falconetti. Quella sera gli era in strada, era settembre e era all'osteria coi tavolini fora. E col mega visto gli ha fatto una roba. Tutta la gente che era lì in strada l'ha portata in osteria. E il che ha pagato di bever per la contentezza che il mega visto, ma neanche che fosse stata sua figlia. A tutti, eh? A tutti. Qua, in ghetto. Se tornati sai pochi. Sono tornata a Trieste nel settembre del 45 e a mio papà avevano detto che ero morta. Vedo per strada un conoscente. Ti prego, Giacomo, non dire a mio papà che sono qua, preparalo prima. Ma sì, non sono mica scemo. Eravamo in cima a Via del Monte. Zaccaria! Zaccaria, c'è la Tina! E mio papà, povero. E vabbè, c'è la Tina, e allora? Tina si chiamava, anche una sarta che stava lì vicino con il tappezziere. Ma che venga su, ma cosa vuole? Ma sei la tua Tina, sei la tua Tina! Di rimpetto c'era la fabbrica di Beltrame, un laboratorio di Beltrame. Mio papà, tutto proteso fuori dalla finestra, con ste mani fuori, per prendermi su dalla finestra. E questa gente di rimpetto, questi lavoranti di Beltrame che piangevano nel vedere che mio papà voleva prendermi per la finestra, con ste mani fuori, per tirarmi su. Mi fanno un bagno di 3 ore. Mi mettono a posto e mio padre, antifascista, sovrintendente alle arti, mi porta al Verdi. Da Buchenwald al Teatro Verdi. Turandot! Ed è così felice che durante gli applausi mi trascina in palcoscenico. Qualcuno del pubblico avrà detto: ma chi sei? Ma dove va quella? Chi sei? Alfredo! Cerca mio figlio, no? No, Sofia Sunni. Ti! Sono tornato a casa sperando di trovare la mia fidanzata. Ho saputo che era stata bruciata. Ieri sera. Il processo. Gang Conrad, unico membro dell'Einsatz Commando Reinhard, interrogato dal giudice istruttore a Trieste, fu trasferito dal governo tedesco al consolato di Nancy. Conrad Gang non fece più ritorno in Italia. Verbale udienza 1 settembre 1970, ore 9:30. Teste Gang Conrad. A domanda risponde. C'era una gran confusione il giorno 7 ed 8 maggio. Il reparto si è sciolto. In seguito ho avuto notizia della ritirata delle truppe jugoslave da Trieste e ho ottenuto un lasciapassare per questa città. Qui ho raggiunto la mia fidanzata che da tempo mi ospitava in via Battisti. Ho trovato un'occupazione presso le forze armate americane. Dopo il 1954 ho lavorato quale bracciante occasionale nel Punto Franco. Infine ho assunto la gerenza del campeggio di Villa Opicina. Nel 1956 ho trovato un impiego a Milano presso il consolato della Repubblica Federale Tedesca. Ho mantenuto la residenza a Trieste e poi l'ho trasferita a Milano. La Corte d'Assise di Trieste dichiara Oberhauser Josef colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 3 anni. Dichiara non doversi procedere contro Allers August Ernst Didri per estinzione del reato ascrittogli per morte dell'imputato. Non possono trovare accoglimento le domande dei congiunti uccisi nella risiera perché resistenti militari o politici. 29 aprile 1976. Josef Oberhauser muore in libertà a Monaco il 22 novembre 1979. Non un frutto, non un albero, non una mela, mai! Là solo fango, niente! Però nell'atrocità del tutto, nel terribile incubo, certe mattine, durante l'appello, presto, intendo dire molto presto al mattino, il cielo diventava rosso, azzurro. La volta del cielo prendeva tutti questi colori. Ecco una cosa che ricordo della Polonia. Le aurore boreali. Abituato al cemento e alle tavole, per un anno mia mamma e mia sorella mi mettevano a letto, mi rimboccavano le coperte e dopo mezz'ora io ero di nuovo per terra. In letto per terra! Che in letto per terra! Tanto avevo 30 kg. Prima dicevano che i greci non erano calcolati. Ho cominciato a fare le pratiche nell'81 e da 2 anni abbiamo cominciato a prenderla. La minima, naturalmente. Dopo laureato mi presentavo dai grandi baroni. Erano sempre al loro posto. Meglio non fare nomi. C'era un clima che ancora oggi dovrebbe essere chiarito. L'odore? Ci sono voluti anni e anni per dimenticarlo. Ah, la mamma non fa bene parlare di queste cose. Ha fatto anche dei gesti sulla finestra, il tubo del gas. A San Giacomo, in piazza Giuliani, c'era ancora il bunker. E ho visto l'unità, l'umanità, la prora, tanti... Adesso non ricordo tutti i titoli. Avendo visto prima solo il piccolo e il popolo, il piccolo e il popolo, non avevamo combattuto proprio per niente. La guerra finita. Tutti volevano dimenticare. E a noi questo ci urtava, a noi che avevamo provato. Credo che ogni persona dovrebbe sapere e non dimenticare. Dimenticare mai. Ne facciamo che svaco e sano, mora velte, gianelte, tenavi strenta. Tutti dovrebbero sapere e non dimenticare. Dimenticare mai. Credo che ogni persona dovrebbe sapere e non dimenticare. I think dimenticare that every mai. Person should know. Mislim da bi svak morao vidjeti i neko zabiti. Pozabiti nikoli. Creo que cada persona tiene que saber y no olvidar. Credo olvidar che ogni persona jamás dovrebbe sapere e non dimenticare. Я верю, что мора свакий човек то знать. Mai. И никогда заборовити. Заборовити никогда. И парея ми хмара, симрацем по, аж везеир гизотану. И харей маши савану. А не хушеве, че коле хацари хладат вело лишкоа. Наша рижарна па би лахко била некачне средище за сречање. Дом солидарност. Сиамо ormai pochi. La nostra generazione sta andando, però questa nostra risiera potrebbe essere un punto di riferimento, di incontro, di solidarietà. Nato a Podcrai, si sconoscono altri dati. Bartoli Giuseppe, nato a Sovischio Montona l'8 del 4 1905, soppresso il 26 del 9 1944. Borut Ivan, nato a Gabrovica il 4 del 4 del 1895, soppresso il 21 del 6 del 44. Barut Servolo, nato a San Servolo il 25 del 5 1906, soppresso il 31 dell'1 1945. Baucer Antonio, nato a Idussina il 13 del 7 del 1905, soppresso il 21 del 6 del 44. Baucer Zorco, nato a Selo il 20 dell'1 del 1926, soppresso il 5 del 4 1945. Benci Josip, nato a Parenzo il 6 dell'8 1895, soppresso il 21 del 9 1944, matricola 11110. Lo spettacolo Risiera di San Sabba 1945-1995. Testo e regia Renato Sarti, con Giorgio Streller, Mira Sardoc e Omero Antonutti, Orazio Bobbio, Marisa Fabbri, Fulvio Falzarano, Lidia Kozlovic, Monio Vadia, Luca Poccai, Ariella Reggio, Paolo Rossi, Bebo Storti, Barbara Valmorin, Xenia Bevitori. Musiche originali Alfredo Lacoseglias, coro Visili Mirk e Prosecco Contovello, I piccoli cantori della città di Trieste. Lettura sottotitoli Federico Raponi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. con la storica Vanessa Roghi per presentare il suo libro La parola femminista. Bentrovata. Bentrovati e grazie. Cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro con il quale ho voluto rimettermi in pari rispetto a un libro che avevo scritto qualche anno fa, che era Piccola città, un libro dedicato alla storia di mio padre dentro una prospettiva collettiva di storia d'Italia. Invece con questo ho cercato di guardare la linea matrilineare di mia nonna e di mia mamma, anche questa per inserirla dentro una storia che è quella poi un po' di tutti, ma soprattutto di tutte noi. Come lo hai articolato? Il libro iniziava proprio con l'idea di ragionare su quanto la parola femminista avesse pesato nella mia vita e in quella della mia generazione, proprio a partire dal fatto che quando ero bambina, essendo mia mamma femminista, mi capitava spesso di appunto non solo sentirla, usarla, ma di trovarmi appunto in situazioni che il femminismo di quegli anni considerava appunto come normali, manifestazioni, collettivi, autocoscienze e via dicendo, e anche discorsi, però discorsi sulla sessualità, sulla contraccezione, sull'aborto e via dicendo. Anche questo. E poi appunto è diventato un lungo periodo perché sono arrivata fino alla nostra contemporaneità e ho cercato di far vedere in qualche modo a me stessa per prima come questa parola a un certo punto fosse scomparsa, e posso dire che ho agito come consigliava di fare Gianni Rodari, cioè con la sua idea della parola come un sasso in uno stagno. Ho gettato nello stagno della mia memoria la parola femminista e ho visto quali onde concentriche appunto procurasse, provocasse, e poi ho guardato intorno ad essa che cosa suscitava anche nelle altre persone che avevo vicine. La sua ricomparsa in che accezioni la vede? È una ricomparsa ormai di lungo periodo, e poi non è che proprio sia scomparsa in generale nella mia vita, ma sicuramente non è scomparsa nella vita di tante altre donne che l'hanno sempre coltivata, questo lo dico insomma nella prefazione del libro. Questo è un libro però per chi come me a un certo punto l'ha persa di vista e ha riniziato a vederla quando negli ultimi 20 insomma i movimenti internazionali, come appunto Non una di meno, l'hanno ritirata fuori con grande forza per proprio in alcuni paesi denunciare la grande violenza contro le donne, e questo è in grande sintesi poi quello che è successo. E il mondo femminista come si è trasformato nel frattempo? Come si è trasformato il mondo femminista, questo diciamo non mi permetto nemmeno di accennarlo. Io posso dire che appunto la sensazione che ho e quello che ho visto insomma poi lavorando a questo libro così è che da un lato questo è stato notato ovviamente già da studiose, giornaliste, intellettuali, come ci sia stata una brandizzazione di questa parola per cui appunto per molte è un'etichetta da indossare, e però appunto invece come ci siano insomma spazi importanti di anche una nuova consapevolezza e anche la scelta proprio di occuparsi di tematiche direttamente legate alla parola femminista, che invece sicuramente prima di 15 anni fa non si faceva. Penso appunto anche a luoghi di incontro, festival, spazi separati, ma anche spazi appunto dove collettivamente si ragiona su questi temi. Nel senso comune, nella società, come è stata recepita l'essenza e la parola? Inizialmente era un portato storico, insomma le femministe erano le femministe dei primi del Novecento, le suffragette, tant'è vero che poi all'inizio il movimento femminista degli anni 70 si chiamava Movimento delle Donne. Riappropriazione della parola femminista è stata una riappropriazione appunto politica fortemente pensata, nel senso che non è stata casuale ed è stata proprio per mettere in luce una dimensione nuova dentro la tradizione del femminismo, che era appunto quella del femminismo della differenza e non più dell'eguaglianza, no? Della semplice emancipazione. Si parlava appunto di liberazione, e questa parola poi è diventata una sorta di anche offesa negli anni Ottanta, no? Non sarei mica femminista, c'era pure un bello spettacolo fatto dalla scuola sperimentale della Bufalotta proprio su questo fraintendimento, e negli anni 90 insomma non ne parliamo, ecco, era quasi un modo per stigmatizzare e mettere in un angolo alcune rivendicazioni, e questo è stato così fino ad anni molto recenti, insomma se ci vogliamo ricordare le reazioni che ha suscitato Boldrini quando è stata presidente della Camera. Insomma, c'è stata una forte reazione che ha proprio usato la parola femminista come una sorta di masso per mettere a tacere poi ogni tipo di discorso, e questo purtroppo lo vediamo molto bene oggi, quando appunto pur avendo una donna presidente del Consiglio non abbiamo certo un governo minimamente orientato verso tematiche femministe. Quali sono le grandi battaglie oggi del movimento? Quella più evidente purtroppo è quella della violenza ed è assurdo che appunto sia così, nel senso che è un movimento femminista che gioca veramente in difesa, tanto si è dovuto rimettere al centro del discorso il problema della violenza sulle donne. Poi ovviamente c'è il tema, anche questo sembra incredibile a dirlo, della difesa dei diritti acquisiti, che anche questi essendo acquisiti, insomma, si penserebbe che dovremmo stare almeno serene su questo. E poi credo che ci sia una nuova necessità appunto di ripartire proprio dalle questioni della sessualità e del proprio corpo, anche proprio per abbracciare tutti i temi che vengono posti dalle questioni di genere che la nostra contemporaneità ci presenta, no? Per cui appunto il tema del binarismo di genere, per esempio, è un tema molto importante e molto centrale, forse in Italia si vede di meno, nel mondo anglosassone già te ne accorgi se vai in una biblioteca quando trovi una persona che appunto ha sotto il nome e il cognome come vuole essere definita, con quale pronome. Allora la questione dei pronomi però non è una questione soltanto formale o una questione di appunto politicamente corretto, ma è una questione proprio di grande ripensamento delle identità delle persone, che può essere fortemente liberatoria. E però appunto invece quello che rischia di essere in Italia anche ancora una volta è un discorso molto stereotipato e soprattutto diviso per bande. Il libro La parola femminista, un saluto e un ringraziamento alla storica Vanessa Roghi. Alla prossima! Grazie mille. È il momento dell'agenda con Simone Nebbia di Teatro e Critica per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben trovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Andiamo a vedere un po' questa settimana a teatro che cosa ci offre. E allora cominciamo come ogni tanto tradizione, beh, è difficile dire ogni tanto tradizione, è tradizione o non è tradizione, però dipende, quando abbiamo informazioni cominciamo la Torbella Monaca e quando non ce le abbiamo, e no. E dunque questa settimana ci andiamo, perché dal 23 al 25 di gennaio, quindi precisamente da giovedì a domenica, in scena c'è Un racconto di Carlo D'Amicis con la regia di Valentina Sperli e Renata Palminiello, in scena la stessa Sperli. Maledetto nei secoli dei secoli l'amore, che attraversa i temi dell'amore irrealizzato, della paura dei sentimenti, in parte anche dell'attuale tema del testamento biologico. Quindi ecco, effettivamente un punto importante anche del dibattito contemporaneo, sempre molto attivo. Quindi 23-25 gennaio, Valentina Sperli, Renata Palminiello per Maledetto nei secoli dei secoli l'amore, Teatro Tor Bella Monaca. E ora andiamo poi invece a vedere qualche altra cosa. Allora dunque, allo Spazio Diamante arriva a Roma Emanuele Aldrovandi con il suo spettacolo L'estinzione della razza umana. Tutti quei titoli, effettivamente, anche se sono così, sul piano semplicemente del suono. L'estinzione della razza umana, con un po' di attori in scena, è una sorta di esorcismo che aiuta a metabolizzare il presente con ironia, lucidità e un po' di surrealismo grottesco, utilizza un linguaggio tragicomico, ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Si tratta di uno spettacolo che racconta di ritmi frenetici, disumani, che impediscono l'introspezione, insomma il pensiero critico a tutti gli effetti. E il dialogo tra gli individui è fatto esclusivamente di litigi sui social network oppure per strada, insomma, in ogni caso. E le due coppie dei protagonisti di questa storia sono persone comuni, ognuno porta una diversa posizione sulla vita, e nell'androne di un palazzo si ritrovano assaliti da domande, frustrazioni e paure. Ecco, questo è un po' il contesto, anzi il contesto in realtà è quello di tutti i nostri quotidiani, le cose che si raccontano probabilmente anche, ma lo andremo a scoprire al Teatro Spazio Diamante, Sala Black, dal 23 al 26 di gennaio con Emanuele Aldrovandi. Poi al Teatro Lo Spazio questa sera e domani 21-22 andremo a vedere questo spettacolo che è firmato da Alberto Fumagalli e precisamente dalla compagnia Le Moustache, una delle compagnie che più direi di seguire, insomma, del nuovo panorama, 21 gennaio, per questo qualcosa che per comodità chiameremo amore, che fa il paio con Maledetto nei secoli dei secoli l'amore, che abbiamo detto prima, effettivamente forse un po' il tema della settimana. È un format dedicato al più nobile sentimento, appunto l'amore, questo spettacolo appunto diretto, scritto da Alberto Fumagalli, in scena ci sono le musiche di Antonio Muro, è un format appunto teatrale e musicale che riflette su questo tema, cercando di disintegrare la retorica, la baciferugina, gli aforismi, insomma tutto quello che in genere è un po' fritto di fritto, scusate, nel trattare l'amore e tutto ciò che concerne. E Antonio Muro, in arte Minollo, è questo artista poliedrico che insomma si ritrova sul palco del teatro Lo Spazio con qualcosa che per comodità chiameremo amore. Procediamo ancora oltre, perché al Teatro Marconi va in scena questo Daimon 4.0, Identità in Download, la regia di Tiziana Sensi, nostra vecchia conoscenza. Giovedì 23 gennaio si chiede se Platone fosse vivo, avrebbe un profilo sui social media? Ci seguirebbe davvero? Sarebbe troppo occupato a cercare il suo Daimon tra algoritmi e feed delle notifiche? Insomma, la vecchia domanda, capire se il mondo antico come si sarebbe comportato rispetto alla nostra contemporaneità. Quindi, insomma, divertente e intrigante la scelta di Tiziana Sensi, che Daimon 4.0, con Daimon 4.0 va al Teatro Marconi giovedì 23 di gennaio. Allo Spazio Rossellini arriva Orbita, Spellbound, la stagione di danza che attraversa vari spazi, questa volta Panoramic Banana di Michele Di Stefano MK, ovvero sia un album degli abitanti del nuovo mondo. Le coreografie di Michele Di Stefano, che ricordo è leone d'argento della Biennale Danza di Venezia ed è condirettore a tutti gli effetti attualmente del prossimo Short Theater, se ne va in scena con questa sua coreografia dopo aver debuttato alla Triennale di Milano, in cui viene riproposto il tema caro alla compagnia, all'artista, il tema dell'altrove e del selvaggio, che sono da sempre centrale nella sua ricerca, ricordiamo, ci sono spettacoli anche recenti su questo argomento. Quindi allo Spazio Rossellini, ricordo il giorno 24 gennaio per Panoramic Banana di MK. Invece al Teatro Altrove arriva Vacanze di Guerra dal 24 al 26 gennaio. E in scena Valentina Martino Biglia con uno spettacolo di Ignasi Garcia Barba, ed è un po' il festival del doppio cognome, interrotto esclusivamente dal regista, che è Ferdinando Ceriani. Berta è una guida turistica dell'insolita agenzia di viaggi che organizza visite turistiche nei paesi in guerra. È un autore spagnolo, Ignasi Barba, e che insomma in modo tragico e comico assolutamente al tempo stesso porta i turisti spettatori all'interno di questo viaggio un po' surreale, diciamo, un clima dove scopriremo insomma che cosa sono venuti a fare questi turisti spettatori in un luogo di guerra, che cosa ci vanno a fare. E è un modo insomma di parlare di guerra in un momento storico particolarmente tragico, ma farlo appunto con un sorriso, perché no. 24-26 gennaio, Altrove, Teatro Studio. Segue al Teatro Lo Spazio, ne abbiamo già parlato, non era sfuggito, gli spettacoli sono due, Vincenzo Longobardi, che scrive e dirige questo Senza Voce dal 24 al 26 gennaio, un dramma moderno che, rievocando la storia tragica di questa famiglia che vive a distanza gli strascichi della Seconda Guerra Mondiale, torna, diciamo, a far vivere quelle situazioni all'interno della nostra epoca, una riflessione sull'ingiustizia della guerra, anche qui, che chiaramente, anche se è retorica, è drammaticamente vera. 24-26 di gennaio al Teatro Lo Spazio con Senza Voce. Si avvicina il giorno della memoria, e che sarà lunedì 27 gennaio, il Teatro Cometa Off lo anticipa con Sound Drama, con musica dal vivo, dedicato ad Anna Frank, e sarà il 23-24 gennaio appunto, con la regia di Valeria Freiberg. A 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, la compagnia Ariadne porta questo spettacolo al teatro Cometa Off, annafrank.sound. Questo è quello che ci viene proposto. E io insisto con ancora tre appuntamenti. Allora, il primo di cui parlerei è un testo, anzi due testi insieme, di Antonio Tarantino, che prende il nome di Lovni, grande drammaturgo torinese scomparso da qualche anno e decisamente rimpianto, portato in scena venerdì 24 e sabato 25 di gennaio al Teatro Biblioteca Quarticciolo da Licia Lanera, la compagnia Licia Lanera, e con appunto la stessa Licia Lanera in scena. È un dittico appunto fatto di due pezzi attorno a un tema comune, anche se sono molto diversi tra di loro. Il tema comune è quello dello straniero, la lotta con il potere, contro il potere, contro coloro che detengono il potere, fanno le leggi, e tutti coloro che non riescono neanche ad avvicinarsi a ragionarci, insomma, con tali personaggi. 24-25 di gennaio al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Love Me di Licia Lanera. Poi al Teatro India, 22-26 di gennaio, arriva Anna Cappelli, testo del grande Annibale Ruccello, che Claudio Tolcacir porta sulla scena del Teatro al Gazzometro, insomma, del Teatro sul Tevere, che è il Teatro India, con un'attrice splendida che è Valentina Picello, che torna a Roma dopo un po', sicuramente a fare un monologo. Anna Cappelli, una donna inquieta, incastonata in un'anima apparentemente leggera e dolce, e ha la sua rivincita su questo maschio indegno, un maschio che sicuramente prima del dibattito sul patriarcato conservava già in sé tutti i segni del più orrido patriarcato. Anna Cappelli fa una scelta discutibile, ma assai potente. In ogni caso, sarà da vedere dal 22 al 26 gennaio al Teatro India con Valentina Picello e alla regia Claudio Tolcacir. Chissà che qualcuno non si ricordi la versione che ne fece un parecchi anni fa la compianta Anna Marchesini, che è qualcosa che cercandola anche soltanto da YouTube o chissà che altro, insomma, si trova ed è esilarante. Chissà quanto di quella versione è finita nella versione adesso di Valentina Picello. Lo andremo a vedere e ce ne faremo un'idea. Allora, invece, al Teatro Sofia c'è un lavoro firmato da Gianni De Feo, alla regia il testo di Marco Buzzi Maresca. Siamo nell'America degli anni 40, Bianco è il titolo dello spettacolo, nell'America degli anni 40-50, insomma, dove affiorano le paure, il jazz e la paura della bomba atomica, della bomba di Hiroshima, o meno sia lo strascico della bomba di Hiroshima giunto fino all'epoca della caccia delle streghe, insomma, del maccartismo americano di quest'epoca. È proprio in questa America però che prende vita l'arte tormentata del grande Jackson Pollock, il gigante dell'espressionismo astratto e dell'action painting, e assieme quella simile esperienza della compagna artista non meno importante Lee Krasner, entrambi rivivono sul palco del Teatro Sofia dal 23 al 26 gennaio, e poi si andrà avanti comunque fino al 2 di febbraio, quindi tanto questa settimana e poi seguirà la successiva. Questo per quanto riguarda il Teatro Sofia. Giovedì 23 in scena all'Angelo Mai torna uno spettacolo che abbiamo visto al Teatro Basilica ormai qualche giorno fa, dal 23 al 25 gennaio, qualche mese fa, Manson di Fanny Alexander, il lavoro con la regia di Luigi Noa De Angelis e con Andrea Argentieri, che indossa i panni dell'accusato e farà rivivere parte delle testimonianze in video audio che Manson rilasciò nelle interviste e durante il processo. È uno spettacolo molto particolare in cui in qualche modo il pubblico viene coinvolto per partecipare attorno alla ferocia delle scelte di Manson e dei suoi crimini, ed è qualcosa che ritorna molto in questo nostro periodo, soprattutto italiano, perché insomma quanto fatto dalla compagnia Fanny Alexander con Manson ha qualcosa a che vedere anche con quest'ultima ondata che porta molti di noi italiani a confrontarci col fantasma della violenza di 100 anni fa, col fantasma del fascismo, insomma la serie M che in questo periodo sta spopolando, che sui social è molto commentata, insomma, e ci si trova a ragionare sopra, e chissà che troveremo in teatro le risposte per affrontare queste grandi domande che abbiamo dentro di noi. Sicuramente tra una cosa e l'altra, mentre ci riflettiamo, è il caso di andare a vedere anche uno spettacolo molto bello che ho visto lo scorso anno sul ruolo dell'arte, diretto da Alfonso Postiglione, in questo caso al Teatro Vascello, Il Rito, Ingmar Bergman, dal 21 al 26 di gennaio. E si tratta di un film omonimo di Bergman del 69. Ci sono tre artisti di varietà che arrivano in una città e sono denunciati per l'oscenità presunta di un numero del loro ultimo spettacolo, e sono di fronte al giudice a cui dovranno rispondere appunto di questa oscenità. E è uno spettacolo che affronta chiaramente il tema della censura nell'arte, ma anche del ruolo dell'arte nella società. Quindi invito assolutamente ad andarlo a vedere, a me è piaciuto molto, e dal 21 al 26 di gennaio Teatro Vascello. E con questo è tutto. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.